Benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo, puntata del 29 di novembre del 2016. Siete in diretta con Popolo della Famiglia TV. Oggi puntata ricca anche di notizie che sono appena arrivate, notizie della notte, quindi oltre ai giornali. Vi informeremo anche sul disastro aereo in Colombia in cui è precipitata una importante squadra di calcio brasiliana, sulla storia di L'Apoelca, una storia incredibile in cui ha simulato un sequestro per farsi dare 10.000 dollari dalla famiglia per escort e droga a New York, arrestato dalla polizia di New York per procurato allarme e per falsa denuncia. Storie davvero incredibili che si innestano dentro la vicenda più decisiva e più onnicomprensiva su tutte le principali pagine dei giornali del referendum. Evidentemente siamo lì. Mi scuso, vengo da una nottata con un picco influenzale mostruoso, quindi sono sotto farmaci, quindi perdonate se non sarò proprio brillantissimo. Dormito poco, grande febbrone, adesso per fortuna solo qualche linea dopo una sudata pazzesca notturna e quindi non in formissima, ma sempre presente per la diretta di Stampa e Vangelo. Vi chiedo come sempre un mi piace, un condividi. Saluto Alex Zino, Ninna Rello, Mauro Rotunno, Massimiliano Amato. In compenso ho messo una maglietta celestina, insomma, per dare un tocco di brio a una giornata in cui sono un pochino più frastornato, ripeto, una nottata un po' faticosa. Abbiamo casa di Nolfi attraversata dall'influenza in questo momento e ieri, proprio stanotte, è toccato a me. Saluto Luciana Frangioni, Silvia Lodà, Massimo Pistoia, Albino Marino, e andiamo sempre come prima cosa alla lettura del Vangelo del giorno. Saluto Carmelo Ricca. Il Vangelo del giorno è un Vangelo in cui siamo tornati al capitolo 10 del Vangelo di Luca. Lorenzo Mattei intanto mi consiglia latte e miele e si va. Eccoci qua, infatti, si va. Comunque, un saluto anche da Silvestro Vultaggio che arriva dalla Svizzera. Fabio dice: buongiorno Mario, non è la febbre, non sei mai brillantissimo, però tu sei qui a seguire me, quindi evidentemente chi sta male sei tu. Andrea Fogliano, Bernarda Raucci, Andreana Di Donato, Anna Russo, Suns 73, Davide Vairani, bellissimo oggi l'articolo che fa da editoriale di Davide Vairani sulla croce, sui dati Istat, sulla natalità. Ve lo consiglio, un'analisi molto attenta. Saluto Alessandro Cocco, gli amici del PDF di Trieste, dopo la bellissima iniziativa del fine settimana. Saluto Nicola Ocello, Sonia Capogrosso, Silvia Lucchetti, Matilde Angioletti, Andrea Cavenaghi, Valeria De Persis, Giovanna Arminio, Rossella Paone. Se potete, un mi piace e un condividi, in maniera che tra pochissimo ci ritroviamo anche nella lettura del Vangelo con più persone possibili, salutando anche Valentina Olivi, Antonio Vincenzo Orru, Roberto Mura. E allora vediamo la pagina di oggi del Vangelo. Dicevo, Vangelo di Luca, decimo capitolo del Vangelo di Luca, salutando anche Alfia Di Pietro, Marcello Faustino e Nicolò Marino, Lorenzo Mattei. E allora, in quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparte disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete, vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete ma non lo videro e udire ciò che voi udite ma non l'udirono. E quindi questa è parola del Signore, è il Vangelo di oggi. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Ed è il cuore della nostra fede, noi che crediamo senza aver visto, diciamo, e siamo dentro la testimonianza di una verità che è però una verità storica. Questa è la forza della testimonianza cristiana, l'incontro con una persona reale, concreta, che si chiama Gesù Cristo. E visto che ha testimoni, diciamo, della verità, che sono vissuti e hanno tramandato la testimonianza per arrivare fino a noi. Saluto Antonella Bagno, Fausto Pardolesi, Mira D'Angelo, Anna Belleri e tutti gli altri amici che sono arrivati alla diretta in questo momento. Segnalo allora la notizia del mattino, quella che davvero sta suscitando le curiosità. Cioè, la vera notizia, lo dico da giornalista, è l'aereo che precipita in Colombia, peraltro con a bordo una squadra di calcio brasiliana importante, e dunque ci sarà sempre una grande copertura di questo fatto. Stanno andando a giocare la finale della Coppa Sudamericana, quindi insomma una sorta di Superga, per capirci, una tragedia enorme anche per l'impatto che avrà socialmente nell'immaginario collettivo, diciamo. Ma la notizia un po' incredibile in questo giorno in cui dovremmo parlare di referendum, a proposito di ciechi che non riescono a vedere, è la Vuelcan e questa storia surreale del sequestro simulato a New York per ottenere dalla famiglia 10.000 euro per escort e cocaina. Insomma, a stringere, questa è la situazione. La denuncia è stata data non dai quotidiani italiani, che ovviamente si guardano bene da raccontare per primi i disastri del rampollo Agnelli, visto che Fiat controlla buona parte del sistema mediatico italiano, soprattutto di carta stampata. La notizia ci arriva dai giornali statunitensi, che raccontano di un Lapuelcan arrestato a New York e poi rilasciato. L'accusa è quella di falsa denuncia, per la precisione di simulato sequestro, ed è una roba veramente che insomma, fa quasi ridere per certi versi. La notizia è uscita sul New York Daily News e sull'Hollywood Reporter. Per la festa di ringraziamento ha contattato una escort trans, ovviamente, un transgender, secondo tradizione di Elkan, con la quale ha trascorso 2 giorni tra alcol, marijuana e cocaina. Ecco qua. La escort avrebbe pagato per altra droga e la Vuelcan aveva promesso di restituire il denaro. Dunque, è escogitato per il denaro questo furbone il piano del falso sequestro, raccontando ai propri familiari di essere trattenuto contro la propria volontà da una donna che gli avrebbe fatto del male se non gli avessero fatto pervenire 10.000 dollari. Questa è roba veramente da pazzi. Un rappresentante della famiglia si sarebbe rivolto alla polizia, che avrebbe organizzato la finta consegna del denaro bloccando la coppia. Gli investigatori però hanno accertato che l'idea era stata di Lapuelcan e la escort, caso chiuso, mentre il cane è stato arrestato e ha una citazione per comparire in tribunale. Questa è la vicenda. Maria Pia di Girone dice: un Agnelli e fa la pecora nera. Questa è una roba veramente incredibile. Saluto Luigi Mercogliano, saluto Emanuele Fiore. Che ne pensi della follia dei mercati finanziari? Questa è una cosa di cui parleremo tra poco, sul referendum. Però questa storia, lo dico non per Lapuelcan, non per puntare il dito contro nessuno, è talmente surreale questa storia, che però racconta molto sul crollo delle classi dirigenti del nostro paese. Questo è l'elemento per cui ci interessa questa vicenda. Non è un elemento di giudizio nei confronti di Lapuelcan, ma uno che va a escort, marijuana e cocaina, senza neanche, cioè, inventa il finto sequestro. Col trans si fa arrestare ed è il figlio di una delle famiglie più ricche del mondo, diciamo così, vuol dire veramente non ci sta con la testa. Insomma, è una fotografia simbolica, voglio dire, di una classe dirigente italiana che ha perso completamente la testa. Le classi dirigenti italiane sono classi dirigenti fondamentalmente ignobili. Vi assicuro peraltro che escort e cocaina, escort e marijuana sono, diciamo, dieta tradizionale di una buona parte della classe dirigente imprenditoriale, giornalistica, politica di questo paese. Ve lo devo dire con chiarezza. Poi quel matto di Elkann riesce a farlo in questa maniera proprio totalmente imbecille. Ma lo ripeto. Escort e cocaina, escort e marijuana sono dieta quotidiana di una buona parte, una buona fetta della classe dirigente, politica, giornalista, giornalistica, imprenditoriale e culturale di questo paese. E questo racconta come mai questo paese sta messo in queste condizioni. Volete avere gli esempi per i nostri figli? Come si fa a avere esempi per i nostri figli se questo è il modello che viene predicato dalle massime classi dirigenti del nostro paese? E quindi Don Silvano Corsi dice: "Ciao Mario, non ho tempo di ascoltarti in diretta, però sento qualcuno che ti ascolta e è contento della trasmissione. Hai visto il messaggio personale per te in Messenger?" No, sinceramente non l'ho visto, si sarà perso fra i tanti. Ieri, ripeto, abbiamo avuto una giornata un po' di trambusto. Tra influenze della piccola, influenza poi nella notte presa a me, operai che abbiamo per casa, insomma, abbiamo veramente avuto una giornata un po' così. E dunque ho perso magari qualche messaggio. Quindi, Don Silvano, se puoi, riscrivimi all'email adinolfi@gmail.com. Saluto Nicola Pasqualato, Giovanni Battista, Anna Cavallo, Danilo Leonardi. Che dice: "Negli ultimi giorni nel bunker di Berlino si faceva un'orgia, c'è una dimensione infernale che non vogliamo vedere, che ci accompagna sempre." Questa è l'osservazione che proprio speravo arrivasse da voi, perché è esattamente quell'impressione che ho io. Mi sembrano gli ultimi giorni della fine dell'impero romano, no? Romolo Augusto, le follie, quelle appunto fatte di orgie, ma anche semplicemente di insensatezza. La storia di questa vicenda non è che io voglio contestare il trans piuttosto che la cocaina. È la totale insensatezza. Ora che l'abbo vada a trans e cocaina è una cosa abbastanza nota, ma che ti puoi inventare un finto sequestro sulla tua stessa famiglia per farti passare 10.000 dollari quando sei un uomo che ha un patrimonio di miliardi di dollari, non la Wellcome, ma la famiglia certamente. Vuol dire c'è qualcosa che veramente non va, insomma, proprio non va, c'è qualcosa che davvero non regge nella testa delle classi dirigenti di questo paese, e la fotografia scattata è proprio la fotografia di una condizione di difficoltà complessiva delle classi dirigenti del paese. Ci tenevo poi allora a dire due parole sul referendum. Nicola Pasqualato introduce la questione: "Se vince il no, fallisce la loro banca d'affari Monte Paschi Siena, e se non li cacciamo in fretta, continueranno a buttarci dentro i nostri soldi." Michela dice: "Cocaina e sesso senza limiti sono i nuovi miti." Giovanni Mazzotta: "In queste classi dirigenti l'uso di droghe porta idee insensate." Esattamente quello che volevo dire, grazie per le sottolineature. Non è un caso episodico, non è un caso isolato del povero matto Lapo e Canno. Vedete, Maria Pia di Girolamo ricorda Marrazzo, il Bunga Bunga, questa è la realtà. Esatto, abbiamo classi dirigenti francamente ignobili. Poi uno dice: "Non bisogna fare questioni di moralizzazione." Per carità, non voglio fare il moralista, però senza dubbio i comportamenti amorali di una fortissima parte, di una vastissima parte della classe dirigente produce questi disastri, il vuoto assoluto, come dice Matilde Angioletti. Sul referendum, dicevo, i mercati, Financial Times dice: "Falliranno 8 banche se vince il no, tentativo di far fibrillare i mercati", che in effetti ieri hanno fibrillato. Oggi l'apertura della Croce è dedicata a Piazza Affari, che perde quasi il 2%, lo spread che arriva a 190. C'è un nostro editorialino in cui spieghiamo che non bisogna usare questi meccanismi per influenzare il voto libero del popolo italiano. Insieme al dato che invece è sviscerato dall'editoriale di Davide Vairani, molto bello, sui dati sulla natalità, che l'Istat ha confermato con il rapporto pubblicato ieri del crollo della natalità e dell'avanzata diciamo così, degli stranieri. 45.000 bambini sono nati tra rumeni, marocchini, albanesi e tunisini, mi pare, quattro sole nazionalità. Ora, questa situazione evidentemente ci porta a dire che l'Italia è sgovernata, non governata, e la motivazione per votare no è anche politica, oltre che di merito sulla riforma costituzionale. Questo tipo di valutazione non deve essere, diciamo così, gestita e influenzata o diventare influenzabile utilizzando la leva dei mercati. È già un processo che è avvenuto, come sappiamo, nel 2011 portarono lo spread fino a 535. Poi l'ho portato a 190, è già una cifra molto importante, a far perdere il primo giorno, la prima sessione di borsa della settimana decisiva per il referendum, il 2% alle banche, far crollare Monte Paschi di Siena, insomma, vuol dire dare segnali allarmistici. Noi dobbiamo essere molto fermi, leggere i fatti come sono e continuare a fare campagna per il no, per far sì che questa riforma della Costituzione, brutta e scritta male, non sia approvata e si apra una stagione nuova. Oggi segnalo tra l'altro al Quotidiano La Croce, scusate, al Quotidiano Il Giornale, la notizia che poi rimbalza da molti ambienti, secondo cui Matteo Renzi si dimetterebbe anche se dovesse vincere il sì. Noi abbiamo provato a scrivere sul Quotidiano La Croce gli scenari che si aprono seconda di come andrà domenica. Da una parte la possibilità di elezioni anticipate, perché il sì potrebbe invogliare Renzi proprio a dimettersi per andare verso elezioni anticipate. Dall'altra il governo tecnico che potrebbe aprirsi, ieri se ne è parlato molto, in caso di vittoria dei no, per fare la legge elettorale in particolare. Saluto Chiara Sammorì, Andrea Dolcini, comunque sia, questo te lo dico al popolo e alla famiglia, entro i prossimi 6-12 mesi noi saremo chiamati alle elezioni politiche, quindi è bene prepararsi, perché questo sarà il momento determinante di tutta questa nostra storia recente. Saluto anche Vincenzo Nettis, Stefano Testa, von Bappenheim, molto piacere averlo qui, Bartolomeo Notarangelo, che va a lavorare e ci saluta. Oggi la puntata sarà un po' più breve, come ho detto, non ho una forma straordinaria, una forma che mi fa reggere la puntata, chiamiamola lunga, insomma. Però ci tenevo comunque a esserci, nonostante la nottata, ripeto, e di febbre e di situazione non proprio piacevole in tutta la casa di Nolfi, attraversata da un virus influenzale, cose che succedono, fra novembre e dicembre, diciamo, piuttosto abituale. Però volevo segnalare anche questa notizia, viene data dal giornale: Renzi pronto a dimettersi anche in vittoria, in conseguenza della vittoria dei sì. Vedremo quello che accade. Intanto c'è una conferenza di Amato sul no al referendum a Bolzano, che viene segnalata da Emanuele Fiore con il link dove si può anche vedere quello che ha detto il segretario nazionale del Popolo della Famiglia, che ieri sera tra l'altro ha avuto uno straordinario risultato di pubblico a Perugia. Io saluto e ringrazio gli amici di Trieste, di Cordenons, di Sesto Imolese, che proprio negli ultimi 3 giorni hanno voluto fare conferenze con me e devo dire con grandissima partecipazione di pubblico, anche con l'intervento in una messa dell'arcivescovo Crepaldi. Insomma, sono state giornate molto belle. Cordenons, la capitale d'Italia del popolo e della famiglia, dove governiamo la città grazie al grande risultato, 3,3% che abbiamo ottenuto in 11 settimane di lavoro, col vice sindaco, col consigliere comunale, insomma una realtà che si struttura. Vincenzo dice: ti vogliamo a Taranto, chiunque mi voglia chiamare, basta scrivere ad inolfi@gmail.com e organizziamo per un'iniziativa. Saluto anche Vera Orsinger, Carolina May, Guido Mastrobuono, Alfia Di Pietro. Noi continuiamo a votare no, come dice bene Alfia Di Pietro. La puntata di oggi, ragazzi, mi perdonerete, ma si chiude qui. Noi ci ritroviamo con le batterie ricaricate, speriamo che l'influenza mi molli almeno domani. Oggi facciamo una giornata un po' così di riposo, per vedere se debelliamo il virus, e ci ritroviamo domani in diretta qui a Popolo Famiglia TV per Stampa e Vangelo. Intanto, se volete, anche per la sottolineatura che abbiamo dato del collasso delle classi dirigenti nella fotografia veramente triste della vicenda di Lapo Elkann, che credo voi conosciate adesso per primi, è una notizia della notte, quindi se ne parlerà molto oggi. Noi ne abbiamo parlato forse per primi qui a Stampa e Vangelo. Quella fotografia è una fotografia estremamente preoccupante, e vediamo di estirpare, soprattutto di sostituire classi dirigenti ignobili con classi dirigenti capaci di una qualche nobiltà. Sarà la saluto Gloria Gallarelli, anche lei affratellata dall'influenza, diciamo così, e a tutti i sofferenti in particolare. Diamo un abbraccio qui da Popolo della Famiglia TV. Seguite le trasmissioni e un abbraccio da Mario Adinolfi.